Smart City, la città intelligente. Un saluto da Maurizio Melis. Questa sera vi facciamo un esempio di buona pratica nel realizzare progetti Smart City che hanno la funzione di ridisegnare la città. E per farlo andiamo ad Ascoli Piceno, dove c'era una grande area industriale dismessa. In questi casi, come sappiamo, queste aree possono restare totalmente inutilizzate per diversi anni. Sono situazioni nelle quali si può intervenire con progetti che vedono all'opera le amministrazioni pubbliche e i privati, ma sono molte le esperienze nelle quali si è finiti in una situazione di stallo. I comuni hanno pochi fondi, i privati non trovano soluzioni convenienti, anche perché queste aree spesso sono inquinate e vanno bonificate. Ad Ascoli invece si è messo in moto qualcosa di diverso, anche perché l'iniziativa privata si è proposta come una formula più coraggiosa e certamente più intelligente, con una società, Restart è il suo nome, che sta per partire con la ristrutturazione dell'area. Ci racconta tutto Francesco Gaspari, amministratore delegato di Restart, intervistato da Federico Pedrocchi. Sentite. Allora, l'area ex SGL Carbon si trova ai margini del centro storico della nostra città e occupa 25 ettari. Si trova nel centro della città, si trova a ridosso del centro storico del quartiere di Porta Maggiore, che è uno dei quartieri nati, sì, diciamo, negli anni 60, uno dei, sì, quartieri più vivibili. Ecco, non può sembrare strano, perché una volta, diciamo, si usava così, che in quest'area ci fosse una grande impresa, fino a non molto tempo fa, insomma, ma soprattutto in tutti i primi decenni del secolo scorso, che era piuttosto, insomma, pesante, inquinante, no? Facevano degli elettrodi per acciaierie. Sì, facevano, la SGL Carbon produceva elettrodi di grafite che sono destinati alla fusione dell'acciaio, quindi è una materia destinata all'industria siderurgica. E molto di quell'industria è scomparsa, e certamente era molto importante allora, ma generava parecchio inquinamento. Quindi quest'area sulla quale il vostro progetto sta per partire è un'area che deve essere bonificata. Sì, è un'area dove è acclarata una contaminazione, un inquinamento. Certo. L'inquinamento riguarda la presenza nei terreni di idrocarburi policiclici e aromatici, che, certo, vengono comunemente definiti IPA. Senta, l'elemento di novità è estremamente interessante anche come suggerimento per altre, come dire, situazioni analoghe che ci possono essere nella progettazione di Smart City, è che qui su un potenziale importante come quest'area è andata a costituirsi una società, la Restart appunto, che è fatta da 40 aziende che sono tutte attrici, no, di questo progetto. Di che tipo di aziende si tratta? Si tratta di aziende del nostro territorio che si sono messe insieme. Diciamo, le 40 aziende rappresentano un po' tutti i settori che verranno interessati dal processo di bonifica e dalla riqualificazione del sito, quindi aziende che operano nel settore degli impianti, dei servizi, delle costruzioni, dei trasporti, società di ingegneria, quindi, certo, 40 soggetti di questo territorio. E quindi avete formato questa grossa pattuglia che ha preso in carico il progetto. Per anche decidere come è fatto questo progetto, avete fatto delle consultazioni con i cittadini per capire da loro quali erano delle esigenze di base, insomma, dei desiderata. Sì, noi abbiamo avviato un processo partecipativo che ha visto, diciamo, il coinvolgimento di 13 associazioni di cittadini. Diciamo, è un percorso che è durato 10 mesi, si sono avuti 50 incontri, abbiamo ascoltato proprio tutti i rappresentanti dei vari portatori di interesse e diciamo, nel dicembre scorso questo forum ha elaborato una proposta unica partecipata che è stata sottoscritta appunto da tutte le associazioni che hanno partecipato, e da queste, diciamo, esigenze poi noi abbiamo sviluppato la proposta che il 26 di aprile abbiamo presentato al Comune. E quindi ormai siete pronti a partire. Ci sarà del verde appunto attrezzato anche secondo questi desideri, ci sarà anche un polo tecnologico all'interno. Sì, il verde pubblico è uno degli elementi, diciamo, qualificanti dell'intervento, perché questo sito, abbiamo detto, di 25 ettari, dopo la bonifica restituirà 16 ettari da attrezzare a verde pubblico, verde sportivo e infrastrutture comunque di uso pubblico destinate alla città, e restituito gratuitamente dalla Restart alla comunità. Nell'ambito, diciamo, delle aree che verranno cedute al pubblico è previsto vista la realizzazione di un polo tecnologico e culturale. E questo polo cercherà di prendere in carico un po' le vocazioni produttive che possono essere interessanti in zona. Assolutamente sì, attraverso la costituzione del polo tecnologico che vedrà sicuramente la partecipazione di Restart, ma non potrà prescindere anche dalla partecipazione degli enti locali, delle università, dei centri di ricerca qui sul territorio, dovrà sviluppare dei progetti di impresa che potranno generare nuovo lavoro per le nostre generazioni, per le generazioni future. Le chiedo un'ultima cosa, mi pare che anche le strade che attraversano questa zona hanno una caratteristica specifica, insomma non sono strade normali. Sì, nella proposta che noi abbiamo elaborato non abbiamo previsto ad esempio percorsi veicolari che possano attraversare interamente il sito, l'accesso al sito attraverso i veicoli si limita esclusivamente al raggiungimento degli edifici destinati al residenziale, per il resto viene facilitata una mobilità sostenibile con percorsi pedonali, piste ciclabili, tant'è che nella proposta abbiamo previsto circa 3 km di percorsi ciclabili e 7 km di percorsi pedonali. Beh, insomma, un grande in bocca al lupo ad Ascoli, terremo gli occhi aperti su questo che sembra un modello molto interessante per mettere mano a quei tanti fantasmi di una era industriale ormai passata che punteggiano le città italiane. Noi ci fermiamo qui, appuntamento a domani.